Freeman secondo me è una persona molto molto intelligente, è anche un grandissimo paraculo. Finale in Australia, vittoria a Roland Garros, quarti a Wimbledon e qui una vittoria, cioè un anno incredibile. E abbiamo apprezzato subito cose diverse di questo uomo, che è una persona che aveva lavorato anche alla Caritas. Tutti convocati di Carlo Genta. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata, adesso devo andare a cercarla qui nei prati. Siamo della stessa pasta, bionda non la bevo, sai, ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi. Allora fu una storia tutta diversa e con Mancini pure, perché Mancini fu lui a decidere a un certo punto di uscire e poi dopo successe quello che successe, cioè man mano andava avanti la cosa, poi si dovette cercare un altro allenatore che era Mourinho, anche se Mancini aveva fatto benissimo, ma era lui che si era staccato, poi dopo è ritornato, poi dopo ci ha ripensato, ma era terra. Quindi si riparte con Stramaccione. Non ci ho mai pensato che potesse esserci un attacco così, ma noi siamo una società non poverissima e quindi credo che a questi attacchi, se ci fosse, potremmo anche rispondere con condizioni che faranno ancora più ricco Massimiliano Allegri. Aia, questo non me l'aspettavo però, quindi non passi dall'ufficio, Max. Questa per cortesia, non scherziamo. Ringrazio il presidente, ma credo che l'attestato di stima da parte del presidente sia stato dopo le prime 8 partite, quando sinceramente poteva tranquillamente cambiare allenatore visto la mancanza dei risultati. E dunque Stramaccioni continua a ballare con Moratti, Allegri balla da solo già da un po', adesso vediamo se riesce a difendere il terzo posto, che strana è anche la vita degli allenatori. 800 24 00 24, e siete tutti convocati come ogni giorno. Franco Piantani, l'autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, e io da Ballando sul Mondo, dal mondo, Emiliano Mondonico, voglio sapere se ha trovato la faraona dell'altra volta. Beccata, buongiorno a tutti, Emiliano. Beccata, era solo un po' allontanata per vedere se trovava. Non sono ancora riuscito a capire se è maschio o femmina. Perciò non so ancora se è andata, chi è andata a cercare. Però l'importante è che l'hai presa. No, ma è rientrata lei da sola. Sì, qui ragazzi. No, qui mangiano e bevono altro che il risultato. Eh beh, sì, invece di andare in giro per i campi a cercarsi da guadagnare come devono fare gli allenatori, le faraone tornano indietro. No, così trovano già i piatti pronti in tavola. Cosa stai facendo? Sto togliendo i germogli a un gelso. Ah, sì. Perché i germogli che nascono sul tronco tirano via forza alla pianta. Sì. E allora io tiro via i germogli fino a circa 2 metri, di modo che sopra la pianta si sviluppa molto molto meglio. Tutta l'energia va in questi germogli e la pianta non ha più un po' una sua fisionomia. Come hai fatto a accorgerti che stavo facendo qualcosa? Per il soffio? No, l'ho chiesto così, però perché una volta cercavi i chiodini, un'altra volta cercavi la faraona e io sono sempre... Adesso, abbi pazienza, sono sempre chiuso qua dentro, mi viene un po' di invidia, almeno attraverso di te vedo il mondo della campagna a colori. Ecco, allora ogni tanto magari fai un salto giù che lo facciamo assieme. Questo è un invito pubblico di fronte a un sacco di persone, guarda che io vengo. Il tipo ufficiale. E poi io come ripagamento ti farò assaggiare, sì, il salame. Ma qualcosa ti porto anch'io però. Va benissimo. Facciamo allora, questo scambio. Per me vale la legge del baratto, tanto denaro non ce n'è più in giro. No, poi dopo diciamo che sei di fronte a certe cose, il denaro, vabbè, dai. Non conta niente. Purtroppo conta, però alle volte facciamo finta di niente. Senti, Emiliano, cosa vuol dire avere un presidente che ti vuole così bene come Moratti? Stramaccioni è appena sopra la linea di galleggiamento e Moratti lo conferma. Allegri invece devi difendere il terzo posto, però non si sa, lui balla sempre da solo. Senti, io penso che nessuno regala niente. E perciò è chiaro che se hanno stima e fiducia di te è perché chiaramente gli dai qualcosa per garantire questa stima e fiducia. Nel calcio, come nella vita, non pensiamo che qualcuno ti regali qualcosa, cioè dare per avere. E perciò quando ti danno perché sono sicuri che li ripagherai con interesse maggiore di quello che loro hanno dato a te. Nel caso di Stramaccioni con Moratti. E Allegri, è chiaro che lì c'è questo terzo posto che secondo me il calendario favorisce il Milan, perché Terra Terra potrebbe vincerle tutte proprio sulla carta, e perciò è chiaro che questo punto di vantaggio della Fiorentina, presumendo che anche la Fiorentina le vinca tutte, potrebbe essere sufficiente. Diciamo che Allegri ha delle buone carte da giocare, e per quanto mi riguarda, mi auguro che le giochi nella maniniera migliore, anche se da tifoso della Fiorentina ti auguro pensare a Fiorentina in Champions non sarebbe male. No, non sarebbe male, mi sembra un Milan comunque un po' smorto, dopo la partita con il Barcellona è diventato sempre più pallido e smunto, al di là della storia di Balotelli. Secondo me ha incominciato a fare i conti, sai? Dici? A far di conto, dove Napoli ha fatto di conto perché il Napoli aveva 4 punti, ma anche la Fiorentina 4 punti. Sì. E perciò il fatto di mantenere questa distanza attraverso il pari forse era la soluzione migliore, o il male minore. Sai, arrivati a questo punto di campionato devi incominciare anche a fare 1+1. Sicuro. E vedere un po' che cosa è fatto fuori. E perciò più che un Milan, diciamo, così in difficoltà, penso un Milan che fa di conto, e vediamo un po' se alla fine questo far di conto lo porterà ad arrivare al terzo posto. Ma fa di conto anche la Juventus, che potrebbe vincere lo scudetto in casa del Toro. Credo che non ti piaccia questa storia. No, lì il Toro, cioè il derby è una storia a sé, il derby è una storia a parte. Nel derby chi parte favorito spesso e volentieri perde, perciò diciamo che nel derby non conta la classifica, ma contano le motivazioni e tutto il resto. Perciò è una partita che si giochi alla pari. Poi dopo, se saranno così bravi di battere il Napoli, si inceppa un attimo. Vabbè, d'altronde la legge del più forte esiste. Se sono i più forti, devono festeggiare. Ma proprio in casa del Toro magari no. Ma infatti penso che la partita di domenica, ma così, non sarà una partita scudetto. No, non penso nemmeno io. Tutti convocati. Mi perdoni la pianta di Gelsi. Emiliano Mondonico, è il tempo delle bufale, invece, inteso non come mozzarelle, cioè Ibra alla Juventus, Lavezzi al Milan, Zeman autocandidatura all'Inter, ma anche le autocandidature in questo periodo lo sai che vanno alla grande, no? Ma sì, ma tutto quanto fa spettacoli. Sì. Importante non dimenticare mai che se illudi la gente, dopo la deludi. Sì. Perciò la gente è sempre meglio non illudere, è sempre meglio parlare chiaro. Sì. Ecco perché in questo momento io non invito tutti a far suo questo detto. Cerchiamo di non illudere nessuno, perché dopo incomincia la delusione, e la delusione porta sicuramente delle prospettive non troppo positive. Questo vale in ogni settore, perché sono giorni difficili, sì. Ci si prende a schiaffoni, hai visto domenica in campo, fuori dal campo, a Catania, a Napoli, davanti al Quirinale. Va bene che è primavera, ma non è necessario fiorire in questo modo, forse. Sì, in questo momento abbiamo bisogno di tanto buon senso, non di parole eclatanti. Scoperto dove lo vendono. Tutto buon senso, che è chiaro che è il male minore. In questo momento non si può parlare di che cosa è meglio, ma di che cosa è meno peggio? Sì, e tu sai che il calcio somiglia da matti alla politica. Assomiglia alla vita di tutti i giorni. E perciò questo non dimentichiamolo mai. Emiliano, io ti ringrazio tantissimo, come sempre. Ti lascio alla pianta di Jersey. Grazie, grazie a te. E appena vengo. Io lascio giù qualche germoglio. Io giuro perché che. Se no viene, non c'è più niente da fare. No, lasciane giù qualcuno, ti prego. Dai, qualcuno te lo lascia. Grazie. Mi auguro che la pianta sia contenta di farsi togliere i germogli da te. Buon pomeriggio a tutti. Ti vogliamo bene tutti. Grazie. Grazie, ciao. Grazie a voi. Grazie, Emiliano Mondonico. I tacchini, ce li abbiamo, facciamo pascolare qui 800 24 00 24 per parlare con noi. Intanto insomma vi do anche qualche notizia che riguarda della notte, che riguarda il basket. Chi non vuole sentirla? Tempo 3 secondi, 1, 2, 3, si tappi le orecchie. Allora, playoff NBA, Chicago vince in casa dei Brooklyn Nets 90-82, dunque serie sull'1-1, 8 punti in 11 minuti per Belinelli, mentre c'è chi si porta sul Clippers, che si porta sul 2-0 con i Memphis Grizzlies e un canestro incredibile di Chris Paul. Questo arriva dalla notte americana. Antonio da Isernia invece, buongiorno. Buongiorno signor Genda. Mi dica. Dunque, io... Pronto? Sì, la sto ascoltando. Sì. Io volevo parlare di Allegri. Sì. Senta un po', a me Allegri da quando è al Milan non mi ha mai convinto, neanche quando ha vinto lo scudetto e neanche ultimamente la partita di andata con il Barcellona. Quella di perché andata non lo ritengo all'altezza della tradizione del Milan. La partita di andata, quella vinta in casa? No, assolutamente no. Vabbè. E poi si è vista la partita di ritorno, che è andata come è andata. Signor Genda, secondo me Allegri al Milan è solo un grande fuoco di paglia, è tutta un'apparenza. O è il Milan ad essere questo Milan ad essere tutta un'apparenza? Gli hanno smontato la squadra. Secondo me, se arriva comunque al terzo posto, ha fatto più del suo. Perché si ricorda lei comunque questo Milan come partito, no? Squadra smontata, sì. Dopo 8 partite era praticamente terz'ultimo. Con il buon senso Allegri ha rimesso in piedi la squadra, non è mai stato nella manica della proprietà, però si è sempre dimostrato uno di grande intelligenza, forse di grande furbizia. Io non capisco perché non la convinca, e non capisco neanche chi lei possa vedere in alternativa all'altezza del Milan, perché del Milan è rimasto il nome, sono rimaste le magliette, è rimasto qualche giocatore, è rimasta una squadra in buona parte da ricostruire, se vogliamo parlare di un Milan competitivo in Europa, altrimenti facciamo altri discorsi. Sì, questo è vero quello che ha detto lei, signor Genda, però come ha detto Allegri, sì, va bene, ma va bene fino a un certo punto. Io dico, chi vorrebbe Milan, tagliamo la testa al topo, non al toro. Sì. Chi vorrebbe adesso al Milan? Allora mettiamo che Allegri vada via, chi? Allora, sì, detto che Allegri va bene fino a un certo punto, sì. Allora il Milan ai milanisti, a fine stagione, un solo nome, Roberto Donadoni, che è stato una bandiera del grande Milan. Sì. Subito, senza ombra di dubbio. Sì, Donadoni può essere uno dei papabili. Poi, insomma, magari non si può sempre seguire questa linea e sempre risolvere tutti in famiglia. Certamente Donadoni ha fatto una eccellente stagione con il Parma, è uno dei possibili, è stato detto tante volte, dei possibili candidati per la panchina del Milan. Sappiamo come Berlusconi voglia molto bene a tutti i suoi ex grandi giocatori, da Donadoni a Van Basten a Rijkaard eccetera, che mi sembrano abbastanza improponibili. Vediamo, insomma, io non sono d'accordo con lei sul fatto che Allegri sia stato un fuoco di paglia dalla prima all'ultima stagione. Ha fatto un titolo vinto, è arrivato secondo, e secondo ed è stata la stagione peggiore, quella passata, non questa. Questa stagione ha fatto molto bene, secondo me, Allegri, con una squadra dimezzata, una squadra ridotta all'osso, una squadra che appunto portava in giro una maglietta molto pesante e delle aspettative molto pesanti, pur senza averne le credenziali e le possibilità. Dunque, questa forse possiamo esagerare dicendo che è stata la miglior stagione di Allegri come allenatore al Milan. Io quasi quasi la chiuderei così. 800240024, siete sempre convocati anche con i messaggi 349-238-6666, anche su Twitter, mi raccomando. Francesco Parma. Ah, buongiorno, gente, buonasera. Buongiorno. No, io volevo riferire per Allegri. È una domanda che faccio e vorrei da lei una risposta. Secondo me l'anno scorso è riuscito a prendere uno scudetto con Cassano, Thiago Silva, Ibrahimovic ed El Shaarawy, perché non è stato in grado, secondo me, di leggere le partite come andavano lette. Quest'anno stiamo riuscendo ad arrivare quarti. Poi Desilio, titolare in nazionale, nel Milan non è preso in considerazione. Obiettivamente parlo come allenatore, per l'amor di Dio. Sì. Come uomo non lo conosco, secondo me non è in grado di allenare una grande società. Solo questo, grazie. No, io dico De Sciglio l'ha lanciato lui. De Sciglio è un giocatore che a me piace moltissimo ed è stato Allegri a metterlo, insomma, a buttarlo sulla ribalta. Evidentemente in questo momento non lo vede, è un giocatore che a me piace moltissimo. L'anno scorso, ripeto, è riuscito a perdere uno scudetto. Lei ha parlato di El Shaarawy, che era appena arrivato, che ha avuto infortuni, che non è stato un fattore nel Milan. Su Cassano glisserei, poi è chiaro che c'erano Thiago Silva e Ibrahimovic. È altrettanto evidente che il Milan l'anno scorso era la squadra favorita per lo scudetto, lo ha perso, dunque credo che l'anno scorso, ripeto, sia stata la stagione peggiore di Allegri al Milan. Su questa stagione invece io dico che in questa stagione, se Allegri arriva terzo e con tutto sommato il cammino che ha fatto in Champions League, perché poi contano sì i risultati, ma contano anche le suggestioni, e quella vittoria di San Siro sul Barcellona è stata una bella suggestione per la gente rossonera, no? È un po' come il discorso che si poteva fare l'anno scorso per il Napoli, cioè una grandissima stagione europea. È chiaro, non arrivi alla vittoria, però le emozioni che ti ha dato ti restano dentro. Quindi se vogliamo astrarci un attimo dai risultati, lo so che nel calcio è una pratica molto difficile, E tenerci soltanto le emozioni incassate, incamerate, beh, direi che la stagione del Napoli l'anno scorso, quella del Milan quest'anno, vediamo come va a finire, ma non è assolutamente da buttare via. Alessandro Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Salve, senta, io volevo fare un intervento per quanto riguarda la mia amata Juventus, però poi da sportivo volevo fare un passo indietro sul non Franco di Parma, ma altro. Volevo dire che il Milan ha vinto quella famosa squadra con un allenatore non milanista, bensì Sacchi, quindi non è neanche corretto andare lì a dire pescare un allenatore che sia da Milan, ok, l'esperienza tutto va, però secondo me dovesse fare Sacchi, poi scelta. C'è stato Capello, che era uno di famiglia, che ma era sempre secondo a Sacchi, però io mi ricordo sì, benissimo sì. Beh, secondo è arrivato dopo Sacchi. Era comunque dopo Sacchi, ma era affiancava a Sacchi. Squadrone lì l'ha creata uno che veniva dalla B, insomma. Però detto questo, dicevo, io sono favorevole al ritorno di Ibrahimovic alla Juventus, perché quest'anno è mancato un Ibrahimovic, essendo poi giro un po' nei campi. Sì, ma guardi, le dico subito che non verrà la Juventus. Adesso stiamo leggendo un sacco di cose, no? Cerca la casa a Milano e queste cose. Ma semplicemente perché, insomma, mi sono un po' informato e insomma, l'arrivo di Ibrahimovic sposterebbe non poco gli equilibri di ingaggio che ci sono all'interno della Juventus, perché non si tratta dei denari da pagare per tra virgolette, il rilevare il contratto di un giocatore, si tratta poi di onorare quel contratto. Ibrahimovic prende dei soldi, prende uno stipendio che in questo momento la Juventus non è in grado di pagargli, non vuole pagargli, e che altererebbe di non poco gli equilibri interni del monte salari della Juventus. Quindi io lo vedo molto lontano Ibrahimovic dalla Juventus, secondo me è una bufala. Ci fermiamo per la borsa? Ah no, prima di fermarci per la borsa, allora voglio farvi risentire un dramma, insomma è un dramma vero, ma un po' mi ha fatto ridere, quando l'ho sentito raccontato questa mattina benissimo in rassegna stampa da Alessandro Milan, riguarda un giocatore del Lecce che si chiama Dramé. Vabbè, voglio concludere con questa notizia, tra la farsa, tra il dramma e lo spettacolo, perché la trovo sulla Gazzetta dello Sport, è una mezza pagina ma anche tra filetti altrove. Cosa ha combinato il giocatore del Lecce Ousmane Dramé? Dramma Dramé. Una prostituta, qua uno può dire, insomma, fatti suoi. La folle notte di Dramé, titolo della Gazzetta, pagina 23. Sembra una barzelletta. Prende una bicicletta e va da una prostituta. Si apparta a fare sesso, poi non avendo soldi gli dà l'iPhone, dice guarda ti do l'iPhone, che tra l'altro 700 euro di valore commerciale, no? Poi non contenta deruba la prostituta, gli ruba la borsetta, scappa in bicicletta, viene inseguito da un trans, lui essendo un calciatore atterra il trans con uno sgambetto, il trans si riprende e lo insegue e viene arrestato. Ma è una roba incredibile, la folle notte di Dramé, ma cosa ha combinato? Dramma Dramé. Convocati. Sto togliendo i germogli a un gelso. E io vi voglio tutti convocati qui sempre ogni giorno dalle 2 alle 3, 800 24 00 24, perché voglio parlare con voi. Dopo il dramma, questa storia anche molto triste di Dramé che va a Zoccoli in bicicletta, poi deruba la prostituta, poi stende un trans con un'entrata da dietro, insomma, un po' scappa da ridere, però bisogna stare attenti nel sorriso, perché è un sorriso amaro. Allora, da questo passiamo invece a quello che era una specie di psicodramma sportivo, ma c'è qualcuno che si è preso la rivincita da grande campione qual è? Boh, non lo so così convinto. Si è preso però la rivincita, ha giocato un paio di partite da civili e ha detto: adesso io sono qui, voi mi avete accusato tante volte, adesso io sono Jonathan. A un certo punto tutti hanno rotolato Jonathan, deve andare via, Jonathan è questo, Jonathan è quello, e purtroppo tutti só vedeva io, se pioveva era io, se nevicava era io, se Inter ha comprato è perché lo sanno, lo sai che questo giocatore può giocare qua, e i direttori sono bravi, cazzo. Ma vi lascio ad ogni libera interpretazione e magari ai vostri commenti, soprattutto interisti. 800 24 00 24, Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno, se possibile volevo dire anch'io la mia su Allegri. Sì, come no. E io sono d'accordo che... Poi mi dice anche la sua su Sir Alex Ferguson. Sa cosa ha fatto? Va bene. No, non lo so. Ha vinto ieri sera il 20° scudetto... No. Nel Manchester United, sa quanti titoli, domanda da trivial, sa quanti titoli ha vinto Ferguson con lo United? 25. No, di più. Madonna. Risposta numero uno questa, le lascio un'altra risposta, quanti? 28. 38. La risposta giusta era 38. Sono rimasto sbalordito perché mi piacerebbe vedere Ferguson col presidente del Milan, chissà che... Beh, non lo vedrà, le assicuro che non lo vedrà mai. Ma, esatto, non lo vedrò mai. No, a me Allegri piace, nel senso che sono d'accordo con lei sul giudizio complessivo. La mia paura è che si sia stancato proprio perché ha tenuto fuori Sharawi col Napoli, non fa giocare De Sciglio, non vorrei che forse sono troppo sospettoso, ecco. In che senso? È che vuole liberarsi per andare alla Roma, stando a quello che si legge sui giornali. Scusi, meglio andare liberarsi ad andare alla Roma, cosa non impossibile. Arrivando terzo, chiudendo per bene la stagione con il Milan, o meglio invece fare dell'autolesionismo non facendo giocare i giocatori giusti? Delle ragioni ci saranno, insomma. Logicamente ineccepibile, no? Non so cosa dire. Cioè, io non ho mai visto un allenatore, sa che quella vecchia massima che non ho voglia di ripetere è un po' scurrile, però non credo che gli allenatori si giochino contro da soli, cioè questa è la prima volta che la sento. Ho sentito di ipotesi di giocatori che magari non gradiscono l'allenatore, allora si dice remano contro, eccetera eccetera, però di un allenatore che rema contro se stesso, beh, questa è la prima volta. Cioè, mi sembra il confine della dietrologia più speed, più hard. Non credo che Allegri voglia con tutte le sue forze arrivare terzo e magari poi dire: signori, mi avete rotto le scatole, adesso vi riconsegno il giocattolo, vediamo chi è capace di fare meglio con questa squadra. Io credo che faccia comunque molta differenza per quanto riguarda il suo futuro e il futuro del Milan e la campagna acquisti e tutte queste cose. Credo che faccia molta differenza arrivare terzo o arrivare quarto. Io continuo a vedere un Milan molto pallido, un Milan che sembra aver finito la benzina della rincorsa e che deve trovare nuove energie per tagliare il traguardo, perché 5 giri a motore spento sono troppi. Arianna, provincia di Trento. Arianna, ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Arianna, non c'è. Niente. 800 24 00 24, noi continuiamo ad aspettare i nostri ascoltatori, ma adesso cosa dite? Parliamo delle Chiqui Chiqui? Fermo balanço, levanta os dois braços e bate na palma, vai! Bate na palma pra saber que você tá aí. Bate na palma pra saber que você tá aí. Bate na palma pra saber que você tá aí. Bate na palma pra saber que você tá aí. Cante o Chiqui Bom! Chiqui Chiqui Bom! Andata bene questa partita, meno male, perché alla fine ero molto stanca. Una soddisfazione incredibile, ovvio, ero molto nervosa all'inizio, la Safarova giocava molto bene, ero anche un po' stanca alla fine, però devo dire che sono stata molto brava a starle comunque sempre attaccata, soprattutto alla fine. Lei ha sbagliato qualcosina in più e alla fine è andata bene. Da lontano mi sento strama, mi giro a cassare, oh strama, bene, oh. Allora, le Chiqui Chiqui sapete chi sono, no? Chi sono le Chiqui Chiqui? Se non lo sapete, cartellino giallo, per tutti. Convocati, ma col cartellino giallo, di fila. Chiqui Chiqui sono Errani e Vinci. E vedete che noi siamo molto attenti anche alle richieste, alle esigenze dei nostri ascoltatori, perché ieri sono arrivati un sacco di messaggi. Convocate loro, parliamo di loro. Ci hanno portato di nuovo nella finale della Fed Cup. Giocheremo a tennis contro le russe. Sarà un'impresa, secondo me, estremamente difficile. Però intanto queste due ragazze ci hanno portato di nuovo oltre un traguardo molto difficile, e abbiamo sentito bene da Roberta Vinci, perché così è andato il confronto con le ceche, che erano un ostacolo estremamente complicato, estremamente difficile. Poi c'è da dire, sono fortissime già di loro, poi quando mettono quella canottiera azzurra riescono certe volte ad andare oltre i loro limiti. Adesso vediamo questa finale con la Russia, che secondo me è tutt'altro che scontata. Bene, le abbiamo cercate le cichi, ma sono già partite per un torneo dove? A Stoccarda. Sono già partite per un torneo a Stoccarda e con i ritmi del tennis attuale, sfili la maglietta azzurra, ne infili un'altra, fai giusto in tempo a preparare la valigia, a metterci dentro le racchette, sei già in campo a Stoccarda il giorno dopo. Però prometto che le avremo convocate non appena possibile. Forse è tornata però Arianna. Ecco Arianna. Allora, vi volevo dire che io ci tengo molto all'Inter, come tutti i tifosi interisti, e mi dispiace. Quanti anni hai, Arianna? Ho 12 anni. Grandissima. Mi dispiace che è andato via Livaja, che secondo me era bravissimo e poi dava tanto, cioè la squadra giocava bene, e dopo quando è andato via, dopo hanno preso Schelotto e sinceramente non gioca bene, secondo me non gioca bene, non è per dare un, cioè, no, per non, essere cattiva, però no, ma puoi anche esserlo, io lo, perché, sono, lo sono tutti i giorni, cioè, secondo me non gioca bene e vorrei che tornasse Livaja. Poi Rocky all'inizio devo dire che lo giudicavo, perché secondo me, cioè, non mi piaceva all'inizio, però adesso sta giocando bene, allora, cioè, beh, non giocava mai, adesso ha fatto un gol, insomma, sì, Rocky no, non può certo essere il futuro dell'Inter, Arianna. Livaja è un giocatore tutto da scoprire, anche all'Atalanta ha fatto cose bellissime, altre meno buone, però insomma, non mi sembra che abbia fatto, hai ragione nel dire che sul mercato di gennaio l'Inter grandissimi affari non li ha fatti, soprattutto a parte Kovacic, e poi anche Kovacic. Jonathan secondo me si è svegliato, cioè bravissimo, adesso gioca, non so come mai prima, però adesso è bravo, secondo me lo devono tenere, non è giusto che lo mandano via. Dici? Secondo me devo mandare via Schelotto, perché magari ci vuole tempo, però secondo me lo devo mandare via perché magari blocca la squadra, non lo so. Anche Alvarez va bene da tenerlo, solo che deve passare più il pallone. E poi l'ultima cosa, ha un piede solo, quando la palla è sul piede giusto, quello sinistro riesce a fare qualcosa, quando è sul piede destro invece quello lo usa solo per correre, poi, o per camminare. Poi Cassano, io vorrei che lo tenessero, anche se ha litigato con Stramaccioni, è vero che magari adesso c'è un clima magari che non va, però secondo me è bravo, cioè senza di lui dopo chi è che abbiamo come punta? E poi una cosa che mi dispiace veramente, siccome Moratti è un buon uomo e secondo me deve mandare via assolutamente Branca e Osilio, perché lo ingannano, secondo me, cioè lo ingannano. Io ho 12 anni, magari. Certo che hai 12 anni, ma hai le idee abbastanza chiare, eh? Io prenderei in considerazione Arianna per una, magari tra qualche anno, per una così un incarico dirigenziale all'Inter. No, perché veramente secondo me Branca, cioè. Allora, vediamo che Galliani parla, lo vedi anche che parla, poi gli altri no, cioè anche Marotta parla, però Branca non si sente mai. Branca sta zitto, ma lì parla solo il presidente, perché il presidente ha il primo diritto di parola. Tu, non so se quanto ti ricordi bene l'era di Mourinho. Mourinho parlava e Moratti stava zitto. Dopo un po', secondo me, Moratti si è un po' stufato di stare zitto sotto i suoi uffici, non cercava più nessuno, ha detto ma come, prima erano tutti qui, adesso sono tutti da Mourinho, gli è pigliata un po' di invidia e allora Mourinho via. Arianna, è stato un piacere, torna a trovarci quando vuoi. Ok, grazie. Comunque posso chiedervi l'ultima cosa, dopo vi lascio veloce. Se Stramaccioni poteva restare, perché secondo me è bravissimo e bisogna dargli, ha già detto che resta Arianna, tranqui, ha detto che resta, quindi Moratti ha detto che resta, poi non so se ha raccontato una bugia, dice che va avanti con lui, continuerà come abbiamo detto all'inizio a ballare con Stramaccioni. Convocati. Non sono tanti che hanno le idee chiare come Arianna di Trento, anni 12. Ragazzi, imparare. 800240024, numero verde. Vi voglio dire due cose. La prima è questa, ed è una notizia appena uscita in agenzia. Alessandro Petacchi, che di anni ne ha 39, lascia il ciclismo, quindi uno dei più forti sprinter della nostra storia ciclistica. Ha detto che insomma, scende dalla bicicletta. L'ultima uscita ufficiale di Petacchi quest'anno è stata la Parigi-Roubaix, lo ricordiamo, in molte, molte tappe vinte al Giro d'Italia, lo ricordiamo anche in grandi stagioni al Tour de France, insomma uno straordinario corridore, con grande talento, ma esploso forse un pochino in ritardo, se no poteva stampare dei record assoluti. Dunque Petacchi scende dalla bicicletta a 39 anni. L'altra notizia, Alegget 27 vittorie al Giro d'Italia, grazie a Franco Piantanida, 27 tappe vinte al Giro d'Italia, 6 al Tour de France, 20 tappe vinte alla Vuelta, quindi fate i conti, 47 più 6, 53 tappe vinte nei 3 grandi giri, e questi sono numeri, signori. L'altra notizia, che invece è di questa mattina, che secondo me è cioè divertentissima, si presta a un miliardo di letture. Sapete che questa sera si gioca la prima semifinale, forse la più attesa, la più charmante, la più affascinante, forse anche la più incerta, delle due finali, semifinali di Champions League. Si gioca all'Allianz Arena, Bayern di Monaco contro Barcellona. Guardiola, si dice, guarderà la partita da New York, nella sua residenza newyorkese. Mi piacerebbe essere una mosca, entrare in quella residenza e vedere qual è la sua faccia, le sue espressioni, i suoi gesti, le sue parole, eccetera eccetera. Comunque il primo confronto tra il disegno passato di Guardiola e quello futuro. Ebbene, la mattina di questa partita, di questa semifinale, ecco che a Guardiola arriva il pacco dono a New York. Ufficiale, gli hanno comprato Götze, che domani giocherà con la maglia giallo-nera del Borussia Dortmund contro Mourinho. Götze, 21 anni, talento del Borussia Dortmund, numero 10, l'anno prossimo giocherà con il Bayern di Monaco, al prezzo di 37 milioni di euro. Qualche soldino il Bayern di Monaco ce l'ha, ma soprattutto è così assai curiosa la tempistica di questa notizia. La mattina della semifinale, ecco che già fai il primo regalo a Guardiola. Ascoltatori 800240024, mi avete rotto le scatole con "ma oggi non parla del mediocre Rossi inteso come Valentino", ma insomma andate al diavolo, mediocre Valentino Rossi, ma mediocri sarete voi. Giorgio Vicenza. Che aspetti un attimo, come, che non sento. Come un avviso del telegiornale a tutti gli interisti milanisti, che tanto gli scudetti sono 31 e per 3-4 anni lasciamo solo perché ci vuole adesso. Sì, questo è un avviso ai naviganti. Va bene, lo prendiamo così com'è, infatti sembrava arrivare da in mezzo all'oceano. Gli scudetti poi fate i conti voi, che a me viene da ridere, oppure non ne ho voglia, semplicemente, con la storia delle magliette con le stelle coperte di quest'anno e 30 sul campo e tutte queste altre cose. Insomma, la Juventus ha vinto lo scudetto numero, decidetelo voi, per me conta grosso modo l'Albo d'Oro, pur riconoscendo che ci sono degli scudetti che non andavano assegnati, ma qui non voglio aprire il solito vaso di Pandora. Marco da Napoli. Salve signor Genta, volevo fare un paio di considerazioni sul Napoli, appunto. Prego. La prima è sulla chiaramente certa vendita di Cavani, perché sarebbe un delitto non venderlo a quelle cifre. La speranza, più che la considerazione, è un augurio che praticamente parte di queste cifre, oltre a rinforzare una buona squadra, dovrebbero essere investiti per l'acquisto e la costruzione di un nuovo stadio, almeno per la ristrutturazione dell'attuale San Paolo, perché credo sia molto più importante questo passo piuttosto che comprare un altro attaccante da 20 gol, perché credo che sia fondamentale per una squadra come il Napoli, che vuole fare quel salto di qualità che la porti da una perenne promessa ad una effettiva forza del campionato di calcio italiano e soprattutto di quello europeo. Beh, però bisognerà, secondo me la cosa migliore è contemperare le due esigenze. È evidente che non la modernità, ma la contemporaneità, insomma, il fatto di essere contemporanei abitanti del mondo del calcio impone strategie differenti. Io considero differenti la cosa, diciamo, dal punto di vista proprio del tifoso che comunque, diciamo, vive la quotidianità del Napoli. Sì. Cioè, a Napoli manca proprio quella voce alle entrate che serve proprio per fare questo tipo di salto di qualità. C'è un Bayern Monaco che ha come seconda voce il marketing, Barcellona, Real Madrid che hanno come seconda voce il marketing e che comunque non possono essere prese nemmeno non a Modena, ma nemmeno nel mirino. Noi non possiamo lavorare con ma infatti tipo di Marco lei sa perfettamente come l'unica società contemporanea sia la Juventus, no? che ha costruito il suo stadio. Non ci è voluto poco, infatti parlando anche di credito sportivo, ci vogliono tante vie, e non è facile in Italia probabilmente come all'estero costruire stadi, basti guardare ciò che succede in Sardegna. Però a Napoli a questo punto bisognerebbe anche contemperare le varie esigenze, no? Secondo me, perché va bene avere in testa una crescita di questo tipo, però Napoli è ormai una grande realtà del calcio italiano e voglio dire anche europeo, considerato soprattutto ciò che ha fatto la scorsa stagione. Si è giocato un campionato meraviglioso, d'accordo, va via Cavani perché la politica societaria è questa, politica societaria, politica degli ingaggi, politica sportiva, e io la condivido totalmente, però sarebbe un peccato indebolirsi, quindi io mi auguro che i denari ricavati dalla cessione ormai certa di Cavani vengano investiti per tenere questa squadra comunque ad un livello di competitività pari a quello attuale. Cosa faccio, ragazzi? Devo chiudere? Devo chiudere. Devo lanciare destini incrociati perché c'è la puntata su Balotelli e del Sharawi, quindi non ve la perdete perché si continuerà a parlare di sport con due personaggi che conoscete bene. Beh, ci sentiamo domani dalle 2 alle 3. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata, adesso devo andare a cercarla nei prati. Intorno a te, contadino. Sto togliendo i germogli a un gelso.